Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ancora molto pesanti i dati sulla disoccupazione. In gennaio sfiora il 13%, siamo ai massimi dal 1977. Quella giovanile al 42,4%, 690.000 i ragazzi senza lavoro. Renzi, è allucinante, la nostra prima mossa sarà il Jobs Act. Consiglio dei Ministri riunito, intanto all'ordine del giorno le nomine di sottosegretari e viceministri, ma anche e soprattutto la riedizione del Salva Roma, mentre nuove tensioni si addensano su Marino. In Crimea uomini armati occupano gli aeroporti. Il nuovo governo ucraino chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Svizzera intanto apre un'indagine per riciclaggio su Yanukovych. Un anno di tempo è quello che ha l'esecutivo per mettere mano alle regole del fisco dopo l'approvazione della delega ieri. Nuovo catasto, lotta all'evasione, 7.30 precompilato. Il ritorno di Toto Cutugno nel nord Europa, da sono un italiano a sono un finlandese, con l'obiettivo di combattere i pregiudizi. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666 come sempre. Iniziamo dalla disoccupazione. Non annunci spot, ma visione alta e concretezza da sindaci. Questa è la bussola che guiderà l'azione di governo di Matteo Renzi, il quale in un tweet inaugura così la sua prima giornata da premier. Una domenica a Firenze, in famiglia. Come avete sentito, è un servizio sbagliato quello che state sentendo sulla disoccupazione. Tra poco ci arriveremo al servizio giusto. Intanto andiamo a parlare del Consiglio dei Ministri che si è riunito su due nodi. Il Salva Roma e le nomine dei sottosegretari. Iniziamo proprio dal Salva Roma col nostro Andrea Viali. Andrea, ci senti? Andrea Viali non ci sente. Allora, oggi abbiamo un po' di problemi, evidentemente dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dei collegamenti e dei servizi. Va male, ma in fondo è venerdì, in mezzo c'è il fine settimana, magari lunedì riporteremo tutto a posto. A quanto pare siamo riusciti a collegarci con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Io ci sono, Simone, mi senti? Eccoci, finalmente. Eccoci qui, vai. Ce l'abbiamo fatta. Vai. Allora, lo dicevi, sì, è ancora in corso la riunione del Consiglio dei Ministri, è iniziata alle 11.30 con un'ora di ritardo rispetto al previsto e questo sembra per sciogliere gli ultimi nodi sui nomi di viceministri e sottosegretari, ma lo dicevi, all'ordine del giorno ci sono anche le nuove norme per mettere al sicuro i bilanci di Roma dopo la decisione del governo di ritirare il decreto Salva Roma, che era a rischio decadenza per l'ostruzionismo di Lega e 5 Stelle. Tra l'altro lo stop a questo provvedimento ieri ha anche alimentato uno scontro fra Campidoglio e Palazzo Chigi, perché preoccupato il sindaco Marino ha minacciato il blocco della città usando anche toni forti che sono stati poi stigmatizzati dal presidente del Consiglio Renzi, il quale ha comunque assicurato l'intervento del governo. Le polemiche sono quindi in parte rientrate. Ora, per recuperare le norme del vecchio Salva Roma, il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare due provvedimenti: un nuovo decreto che consentirà di mettere in sicurezza innanzitutto il bilancio del 2013 e poi un disegno di legge che, fra le varie misure, dovrebbe anche imporre all'amministrazione capitolina un piano di rientro del debito a tappe forzate e con maggiori controlli da parte del Ministero dell'Economia. Simone. Grazie al nostro Andrea Viali, ed è aperta naturalmente la partita ai sottosegretari e viceministri. Elisabetta Fiorito, eccoci. Si parte con un'ora di ritardo il Consiglio dei Ministri, Simone, che deve decidere la nomina dei sottosegretari, anche se il governo smentisce un prevertice sull'argomento. La quota massima prefissata è 45 tra i nomi che si fanno, quello di Luca Lotti, fedelissimo di Renzi, che potrebbe andare all'editoria al posto di Giovanni Legnine, che a quel punto traslocherebbe al Ministero dell'Economia con Luigi Casero, confermato viceministro del nuovo centrodestra, e Pierpaolo Baretta del PD. Paolo Coppola invece dovrebbe avere l'incarico per l'agenda digitale al Viminale, conferma per Filippo Bubico, mentre in area democratica dovrebbe arrivare Emanuele Fiano. Come viceministro del nuovo centrodestra anche Enrico Costa alla giustizia e 6 o 7 7 o 8 sottosegretari, per Scelta Civica invece si parla di Benedetto Della Vedova come viceministro all'economia e di Benedetta Borletti Buitoni come sottosegretaria ai beni culturali. Mauro, per i popolari, per l'Italia, si candiderebbe per gli affari europei, ma in pole position anche il democratico Sandro Gozi. Infine Matteo Renzi starebbe pensando ad un team per dirigere il Partito Democratico con Lorenzo Guerini e Deborah Serracchiani. Queste almeno sono sempre indiscrezioni, Simone, perché bisogna aspettare la fine del Consiglio dei Ministri. A te. E vedremo quando finirà, perché evidentemente le cose all'ordine del giorno sono parecchie. Allora, a quanto pare abbiamo pronto il servizio sulla disoccupazione, la nostra notizia di apertura, via. È il dato peggiore dal 1977, cioè dall'inizio delle rilevazioni trimestrali dell'Istat. 12,9% il tasso dei senza lavoro a gennaio, in rialzo di 0,2 punti percentuali su dicembre e di 1,1 su base annua, 12,9 contro il 12 europeo. In Italia c'è un esercito di 3 milioni e 300 mila persone senza lavoro, l'1% in più su base annua secondo le stime dell'Istat, e come sempre più colpiti sono i giovani tra i 15-24 anni, quasi uno su due senza impiego, in Europa uno su quattro, i giovani e il sud. È infatti nelle regioni meridionali che si registra la maggiore perdita di posti di lavoro, con il 4,6% di disoccupati in più contro l'1,1 del nord e l'1,5 del centro. Tra fabbriche che chiudono e altre che delocalizzano, negli ultimi 5 anni quasi 1 milione di posti di lavoro sono stati bruciati, di cui la metà solo nel 2013, il peggiore anno dall'inizio della crisi. E in generale l'Italia è tra tutti i paesi europei quello ad aver avuto l'aumento più consistente della disoccupazione mensile, insieme a Malta, dove però il tasso è più basso, 6,9%, mentre in termini assoluti è la Spagna il fanalino di coda dell'Europa con il 25,8% dei senza lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro dal lato della disoccupazione. Se cresce la disoccupazione, cala invece l'inflazione, quantomeno su un mese. Secondo le stime preliminari dell'Istat, in febbraio i prezzi al consumo al lordo dei tabacchi sono scesi dello 0,1% rispetto a gennaio e aumentati dello 0,5% nei confronti di febbraio 2013, con una ulteriore decelerazione di 0,2 di punto percentuale rispetto al valore registrato in gennaio, che era un più 0,7%. Quella di oggi è ancora una giornata tesissima in Ucraina, dove il Parlamento ha deciso di chiedere una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui fa parte anche la Russia, per esaminare in particolare la situazione in Crimea dopo l'occupazione da parte di uomini armati, probabilmente filorussi, del Parlamento di Simferopoli e di due aeroporti. Grande attesa intanto per la conferenza stampa del deposto presidente ucraino Viktor Yanukovych, annunciata per le 14 ore italiana a Rostov, nella Russia meridionale, al confine con l'Ucraina. Nel frattempo la Banca Centrale Ucraina ha annunciato di aver limitato a 15.000 grivnie, ossia circa 1.095 euro, il massimale quotidiano dei soldi ritirabili nelle banche del paese. E sempre a proposito di Ucraina e a proposito di Yanukovych, oggi sono arrivate notizie dalla Svizzera che avrebbe aperto un'indagine per riciclaggio nei confronti dello stesso Yanukovych. Su tutta la vicenda dell'Ucraina torneremo più avanti con un approfondimento. Noi torniamo all'Italia e parliamo degli abbonati a loro insaputa a un sito dal nome Acquisti e Risparmi, grazie alla promessa di buoni sconto per gli acquisti fatti sulle piattaforme internet di alcune aziende che vendono online. È intervenuto l'antitrust. Acquisti un biglietto aereo o uno per un concerto e automaticamente entri in un giro di sconti che, contro ogni logica, vanno pagati 12 euro al mese anche se non ne usufruisci. Un messaggio non riconoscibile come offerta promozionale ti invita a ricevere 10-20 euro di buoni per il prossimo acquisto. Ti chiede i dati e via. Ti prelevano 12 euro direttamente dalla tua carta di credito. Ma anche se te ne accorgi subito, i 12 euro sono già stati versati chissà dove e la telefonata che blocca il prelievo non ha come conseguenza la restituzione. Di questo inghippo, dopo che i consumatori ne hanno fatto le spese, si è accorta l'antitrust, che ha sanzionato con 1,7 milioni di euro 8 società che promuovevano buoni sconto attraverso l'iscrizione a loro insaputa a pagamento su un sito dal nome Acquisti e Risparmi. Colpito il gruppo Web Loyalty, attraverso il quale avveniva l'aggancio, e le società Alitalia, Air One, Ryanair, eBay, Ticket One e Dreams, che ricevono corrispettivi da Web Loyalty per ogni pagina visitata e, con l'eccezione di eBay, di ogni abbonamento sottoscritto. Da pratica commerciale non conveniente, disattivata da oltre 60% dei consumatori agganciati, è diventata ora scorretta. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso vogliamo parlarvi invece della delega fiscale che è stata approvata ieri in Parlamento. Saluto in studio con noi, buongiorno, a Jean-Marie Delbo, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno agli ascoltatori e a tutti voi. Allora, ricordiamo innanzitutto che cosa si intende per legge delega. Non è una legge vera e propria, ma è semplicemente un mandato al governo perché legiferi su una determinata materia, con degli indirizzi precisi sostanzialmente. Jean-Marie, quali sono questi indirizzi? La legge nasce appunto come il mandato al governo perché faccia un'ampissima riforma del sistema fiscale. Il problema è che il governo avrà in questa circostanza vari ambiti di intervento: la casa, il reddito d'impresa, le semplificazioni, avrà la possibilità di intervenire sul contenzioso, sulle sanzioni. In alcuni casi però ci sono delle linee guida molto stringenti, in altre invece viene dato uno spazio maggiore alla fantasia della politica. Allora, che cosa potrebbe cambiare in concreto per noi? Perché, insomma, dato che ci diventiamo pazzi quotidianamente con il fisco italiano, non dico voi che ci lavorate tutti i giorni, ma che cosa potrebbe cambiare in concreto? Quali sono i punti centrali? Secondo me la risposta deve percorrere due binari. Allora, se la domanda è pagheremo meno, la risposta non può che essere: al momento non si può sapere. Se la risposta, la domanda è pagheremo meglio, forse la risposta può essere positiva. L'intento infatti è quello di arrivare a una grande semplificazione e a un'operazione che renda il fisco più equo. Facciamo l'esempio del catasto. Il catasto dovrebbe portare a un sistema più equo, non necessariamente però a un sistema meno caro. Facciamo l'esempio invece del reddito d'impresa o delle semplificazioni. Qui le linee guida sono meno stringenti, il governo avrà lo spazio per esercitare, diciamo, la sua fantasia in linea per arrivare a una semplificazione, oppure ponendosi l'obiettivo di ridurre il carico fiscale. Ma c'è la possibilità che tutto questo poi porti, diciamo, ad una, non dico ad una sorta di testo unico, però qualcosa che veramente a cui fare riferimento e che non sia un continuo rimando a leggi, altri decreti, fino ad approdare a decine se non cinquantine di anni fa? La risposta deve essere sincera? Sì. Il testo unico credo di no. Una razionalizzazione forse sì, e vorrei giustificare l'affermazione. Il testo unico credo di no, perché fare un testo unico delle norme tributarie richiederebbe probabilmente un approfondimento maggiore rispetto a quanto è stato fatto finora. L'obiettivo resta sicuramente per tutti quello di arrivare a un codice fiscale, ma l'obiettivo forse è perfino troppo ambizioso. Noi abbiamo bisogno di altro, di un fisco più gestibile e più sopportabile in prima battuta. Magari il codice rimandiamolo a un momento migliore. Ci dici le tre cose che secondo te sono più interessanti e ci riguardano più da vicino? Allora, il catasto, perché il sistema attuale è squilibrato e quindi un ritorno all'equità sarebbe quanto mai opportuno. Il reddito d'impresa, perché dalla tassazione del reddito d'impresa diversa passa tanta via per arrivare alla ripresa. E direi le sanzioni, perché lì c'è bisogno di una razionalizzazione che eviti sovrapposizioni, che eviti di arrivare a un sistema in cui si applicano sanzioni molto elevate e poi ci sono tante possibilità di sconto e il contribuente rischia di perdersi. Grazie a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. E tutti i dettagli naturalmente li trovate anche sul Sole 24 Ore oggi in edicola, e con la promessa che anche come gruppo editoriale terremo sotto controllo il lavoro del governo da questo punto di vista. Ora noi parliamo di musica, una musica che probabilmente non vi aspettate. Voglio tietäisi maailmalla. Ole in suo Malainen, la versione finlandese della canzone L'italiano di Toto Cutugno, è tornata alla ribalta in forma rinnovata. Cliccatissima su YouTube, melodie e parole della cover sono le stesse della versione lanciata ad Helsinki da Carità, più star della scena musicale finlandese per oltre 30 anni, scomparso nel 2010, che presentò per la prima volta il brano nel 1983, a pochi mesi dall'esibizione di Toto Cutugno sul palco del Festival di Sanremo. Ma la novità è che a cantarla questa volta sono 12 cittadini comuni che, pur avendo il passaporto finlandese, sono tutti di origine straniera. E così da brano cult cantato nei karaoke di tutto il paese quasi come un inno nazionale, si è trasformato subito in un inno antirazzista. Obiettivo di coloro che hanno rilanciato Olen Suomalainen era proprio di far riflettere la gente su cosa voglia dire essere finlandesi oggi. Sotto la stella polare, su questa terra che è casa mia, canto la mia vita, sono finlandese, sono le parole della prima strofa. Bisogna però ammettere che questa versione finnica, rinnovata sia nell'arrangiamento che per il messaggio, valorizza la canzone scritta da Cutugno, che forse ingiustamente molti all'epoca abbiamo snobbato considerandola un po' trash. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la sua malaine. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora molto pesanti i dati sulla disoccupazione. In gennaio ha sfiorato il 13%, ai massimi dal 77, quella giovanile al 42,4%, sono 690.000 ragazzi senza lavoro. Renzi dice: allucinante, la nostra prima mossa sarà il Jobs Act. Notizia battuta un attimo fa dalle agenzie: il Consiglio dei Ministri è riunito e, a quanto pare, dicono fonti di governo, sarebbero state approvate le nuove norme cosiddette Salva Roma. In Crimea uomini armati occupano gli aeroporti, il nuovo governo ucraino chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Saluto Francesco D'Ausilio, presidente del gruppo del Partito Democratico in Campidoglio e quindi al Comune di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, vogliamo naturalmente parlare con lei del fatto che è saltato il decreto Salva Roma, del fatto che sono state approvate, queste sono ancora indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi, le nuove norme per consentire alla capitale questa uscita da una situazione finanziaria pesante. La prima domanda che le voglio fare è però una domanda politica, perché mi è sembrato che si sia addensato un discreto numero di tensioni sul sindaco Marino, anche da parte vostra, anche da parte del Partito Democratico che lo sostiene. Ma in realtà no, ieri è stata oggettivamente una giornata complicata, dai toni molto convulsi, e abbiamo segnalato al sindaco l'opportunità di non lasciarsi trascinare anche nelle dichiarazioni in toni di contrapposizione, perché abbiamo reputato e reputiamo ancora oggi che si debba porre questa questione con grande forza ma con grande serenità, dato che si tratta di una richiesta, diciamo, fondata e oggettiva. E quindi se si è registrata una dissonanza è stato solamente su questo passaggio, mentre noi abbiamo ribadito il nostro sostegno al sindaco nella sua richiesta affinché oggi il governo approvasse questo decreto in maniera urgente. Le leggo, perché è anche il sentimento di molti italiani, non solamente del nord, a dire il vero, le leggo lo status su Facebook di un suo collega di partito, che è il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Dice: io non ho nulla contro Roma e contro il Lazio, ma non capisco perché i buchi nostri dobbiamo pagarceli noi, mentre quelli di Roma e del Lazio devono pagarli tutti gli italiani. Che cosa rispondete a una frase di questo genere? Che purtroppo, forse anche per errori nostri, ma nelle ultime settimane si è teso a dipingere la vicenda di Roma come il male del paese. Queste norme che sono state ritirate dal governo qualche giorno fa in realtà erano norme che erano collegate ad altre misure che riguardavano altre città italiane, tant'è che il decreto si chiamava enti locali ed è stato trasformato nella vulgata mediatica Salva Roma. Sì. Ora è evidente, ieri ci sono state... Perché ci sono dentro, mi scusi D'Ausilio, ci sono dentro anche Venezia, Alessandria, tra l'altro il sindaco di Alessandria, che è un altro comune, che è un comune in dissesto, sarà ospite oggi di Oscar Giannino a quanto pare. Giusto per chiarire anche agli ascoltatori che altre cose c'erano dentro questo decreto, prego, prosegua. Durante la discussione in Parlamento, questo già poco prima di Natale, il Parlamento aveva ulteriormente appesantito questo decreto al punto tale da produrre una reazione anche da parte del Presidente Napolitano. Quindi purtroppo quando si parla di enti locali, al di là di quelli che sono in dissesto, si parla di una realtà molto delicata, perché nel corso degli ultimi 7-8 anni gli enti locali si sono viste ridotte drasticamente i trasferimenti. Allora, D'Ausilio, io questo lo capisco. È vero anche però che Roma è una città, è un comune che ha 23 partecipate dirette e nel complesso 160 partecipate, diciamo, nel cui capitale ci sono queste partecipate dirette sostanzialmente. Ci sono dei numeri, devo dire, per quanto riguarda soprattutto le partecipate, che sono impressionanti. Io ne guardavo e ne ho twittato qualcuno stamattina. Per fare un esempio, allora, l'ATAC ha 1,2 miliardi di clienti all'anno, e questa è una stima del comune, e incassi per 249 milioni di euro. L'ATAC è l'azienda di trasporto pubblico locale di Roma. L'ATM, che è quella di Milano, ha 600 milioni di clienti l'anno, quindi la metà, e incassi per 654 milioni. Capisce che c'è un problema di gestione. Se guardiamo anche i dati dell'assenteismo all'interno di queste municipalizzate, sono molto pesanti. All'AMA siamo intorno al 18,5%, se non sbaglio. Allora, insomma, forse c'è da mettere mano anche a queste cose, e forse nel primo anno di governo Marino forse su questo poteva essere più energico. Io sono completamente d'accordo con la sua analisi, nel senso che noi dobbiamo aggredire queste sacche di inefficienza, di sprechi e anche di una sbagliata politica di gestione del personale. È ormai una sfida ineludibile, nel senso che o l'amministrazione è in grado di mettere in campo misure urgenti, oppure non sarà in condizione nemmeno più di erogare servizi pubblici, perché non è possibile una linea di credito da parte del governo tesa a ripianare strutturalmente il dissesto. Tant'è che noi concretamente abbiamo posto il tema di redigere un piano di risanamento pluriennale che fosse molto serio nei propri impegni, anche dunque anche valutabile e monitorabile da parte del governo. Questo significa tagliare del 15-20% annualmente i contratti di servizio, significa perimetrare con grande concretezza ciò che devono fare queste aziende, perché sono troppe, le dobbiamo ridurre. E vendere un po' di partecipate dunque anche? Beh, abbiamo avuto qualcuno che ha messo in campo una proposta che io non condivido, quella di vendere l'unica azienda del comune che produce utili, ovvero Acea. Mi è parsa una furbizia nella difficoltà. Allora, facciamo una cosa, teniamo fuori Acea, ma insomma, sulle altre si può lavorare, insomma, no? Sono aziende che se fossero messe sul mercato oggi non varrebbero nulla. E dunque, prima di poterle non vendere, ma liberalizzare, perché ce lo impone l'Europa, noi dobbiamo risanarle. Per risanarle dobbiamo non soltanto iniettare risorse, ma pretendere che queste aziende nell'arco di 2 o 3 anni siano aziende sane, che tornino in pareggio. E questo vuol dire, D'Ausilio, anche qualche licenziamento, immagino. Insomma, qualcuno dovrà uscire, perché c'è una quantità di personale notevole in queste aziende. Significa partire anche da questo. In questi purtroppo ultimi 5 anni abbiamo avuto un'iniezione di personale in queste aziende assolutamente sovradimensionata, la famosa parentopoli di Alemanno, si ricorderà bene, e oggi noi abbiamo in queste aziende, penso all'AME e ATAC, personale addirittura non direttamente impiegabile nelle mansioni dirette di quelle aziende. Ecco, e questa gente però se ne dovrà andare, insomma, a un certo punto. Molto brevemente, mi scusi, siamo quasi in chiusura. Guardi, non credo che si possa licenziare nessuno così in tronco, perché altrimenti si sarebbe fatto. Peraltro ci sono anche delle indagini in corso su come queste aziende come queste persone sono state assunte, molto spesso negli ultimi 5 anni addirittura senza concorsi o selezioni. Il lavoro da fare è quello di poter riconvertire queste risorse e renderle direttamente operative, come stanno facendo in ATAC, in AMA, nel servizio della raccolta dei rifiuti, ad esempio nell'ATAC, nel bigliettaggio, nel lavoro nelle stazioni. Io non voglio rimuovere i problemi, c'è un problema enorme che è il costo del personale. Dopodiché, dato che si tratta di aziende che, ripeto, penso all'ATAC, che fino al 2019 non potrà essere liberalizzata, noi vorremmo portare l'ATAC viva e sana a quell'appuntamento. Allora, Dautilio, io la devo salutare, la ringrazio, auspico che questo avvenga in tutta sincerità, insomma, per il bene di Roma e anche per il bene del paese. Vedremo cosa succederà. Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS, bentornato ai nostri microfoni, salve. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, torniamo a parlare di Ucraina con lei. Quello che vi abbiamo raccontato poco fa nell'aggiornamento è che uomini armati hanno occupato gli aeroporti in Crimea. L'Ucraina chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Vorrei capire subito da lei, dottori, se c'è un rischio che innanzitutto scoppi un conflitto e che poi questo conflitto si allarghi. Beh, innanzitutto diciamo questo, che per quanto riguarda l'approccio russo a questa crisi, io credo che siamo ancora nell'ambito di un disegno che mira da un lato ad accentuare i contrasti sul terreno, perché a misura che i contrasti si accentuino sul terreno prende maggior forza la destra estremista. Destra estremista che squalificherebbe l'intera rivoluzione che ha vinto a Maidan, dando quindi alla Russia delle garanzie abbastanza importanti circa il fatto che l'Ucraina non entrerebbe nell'Unione Europea e tantomeno nella NATO. Dall'altro lato, queste misure graduali che vengono assunte in questi giorni possono servire ai russi anche per testare la determinazione degli Stati Uniti e degli europei a difendere eventualmente l'Ucraina. I segnali che in questo momento vengono dagli Stati Uniti e dagli europei non sono di forza particolare, quindi io non escluderei neanche che da un obiettivo limitato, quale il primo che ho descritto, in una successiva fase possa anche riscontrarsi qualche forma di utilizzo della forza da parte dei russi in qualche zona dell'Ucraina. Diciamo che la situazione è molto fluida. Molto fluida, come si dice in gergo. Secondo lei, alla fine, Stati Uniti ed Europa, come dire, da questo punto di vista, si muoveranno, risponderanno ai russi oppure no? Ma io credo che oltre un certo limite non si andrà, però è certo un azzardo e non credo che in questo momento in Russia ci sia a livello della dirigenza più alta la voglia di correre rischi eccessivi, di correre avventure, specialmente quando è a disposizione un'alternativa diciamo più morbida. La Russia non può varare nei confronti dell'Ucraina un embargo energetico, perché questo significa perdere anche gli introiti dalle forniture di gas e petrolio dirette in Europa. Però, ripeto, può accentuare la polarizzazione interna all'Ucraina e tutto questo evidentemente a danno dei primi interlocutori degli Stati Uniti e degli europei, che sono il partito della Timoshenko da un lato e il partito di Klitschko dall'altro. Nel momento in cui il profilo del contrasto tra ucraini nazionalisti e russi si accentua, ne traggono vantaggio gli elementi vicini a Svoboda, il Pravi Sektor, tutti questi che sono simpatizzanti dell'estrema destra, in qualche caso anche apertamente nazisti o di simpatie filonaziste, e questo ovviamente cambierebbe tutto lo scenario in una direzione che credo oggettivamente potrebbe trovare vantaggiosa. La ringrazio, grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS Guido Carli di Roma, buona giornata. Grazie a voi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Consiglio dei Ministri avrebbe approvato il nuovo decreto sugli enti locali che contiene le nuove norme salva Roma, questo secondo alcune indiscrezioni, dettagli più tardi, perché il Consiglio dei Ministri è ancora riunito, deve anche decidere sul sottosegretario e viceministri. Ancora molto pesanti i dati sulla disoccupazione, in gennaio sfiora il 13%, ai massimi dal 77, quella giovanile al 42,4%. In Crimea uomini armati hanno occupato gli aeroporti, il nuovo governo ucraino chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È il momento della borsa. Borse in diretta. Borsa che è abbastanza negativa, meno 0,17% sul FTSE MIB, meno 0,16% sul FTSE All-Share, negativa anche Parigi, meno 0,27%, lievemente positiva Francoforte, ma in realtà poco sopra la parità, e Londra giù dello 0,25%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai? Le borse non riescono a trovare spunti positivi. Oggi la diffusione di un dato leggermente superiore alle attese sull'inflazione dell'Eurozona, che a febbraio è rimasta stabile allo 0,8%, ha peggiorato l'andamento degli indici che già erano partiti cauti, visto che è un dato che allenta la pressione sulla Banca Centrale Europea, che si incontrerà giovedì prossimo a prendere nell'immediato misure di allentamento dei tassi di interesse. Adesso l'attesa è per una fitta serie di dati americani previsti nel primo pomeriggio, fra cui il PIL del quarto trimestre. Persistono anche le tensioni sul fronte ucraino e questo ha qualche ripercussione sui mercati. Naturalmente, sui due fronti opposti, titolo migliore e titolo peggiore sono una banca, il migliore Banco Popolare più 3,48%, la peggiore Unicredit meno 1,81%, Isabella. Sì, il Banco Popolare guadagna oltre il 3%, questo sulla scia dei risultati e della presentazione del piano industriale. Un trader definisce il piano aggressivo con target piuttosto ambiziosi e sottolinea nel contempo che il titolo aveva perso molto in controtendenza rispetto a un settore bancario generalmente negativo. C'è anche la Popolare di Milano che sale dello 0,8%. Grazie Isabella anche per oggi, buona giornata e buon weekend. Buona giornata. In collaborazione con borsaitaliana.it. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Mediterraneo, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Mediterraneo. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 14 e 15 marzo, Fiera di Napoli. Dicono che il cibo sia ottimo. Davvero? Sei bellissimo. Certe cose possono intromettersi nei vostri momenti insieme, come la disfunzione erettile. Cosa, tesoro? Dicevo, sei bellissimo. Ho il bisogno di andare al bagno più spesso o con urgenza. Segnali di un ingrossamento della prostata chiamato IPB. Far finta di niente non è la soluzione. Parlane col tuo medico. Potrà consigliarti varie opzioni di trattamento. Sei bellissima. Sarai felice di essertene liberato. Visita uomoesalute.it. Campagna promossa da Eli Lilly Italia S.p.A. con il patrocinio di CUC ICAMS. Quando si tratta di tecnologia, i giapponesi pensano in grande? Facendo le cose sempre più in piccolo. Consumi ridotti e da oggi anche prezzo ridotto. Mitsubishi ASX, il crossover compatto da 15.950 euro. Fino al 31 marzo. Oh, grande saggio, casa mia fa acqua da tutte le parti. Compro una muta o chiamo l'idraulico? Prima fai la spesa da Eurospin e coi soldi risparmiati fai riparare il bagno. E io guardo, di idraulica non ne ho mai capito un tubo. Ogni giorno qualità e freschezza al miglior prezzo, per non farti rinunciare a niente. Ad esempio, dal 27 febbraio all'8 marzo, un litro di latte Land parzialmente scremato a 59 centesimi e yogurt assortiti Land 150 grammi a 19 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato poco fa di Ucraina, ebbene ci sono degli aggiornamenti perché l'Europa è pronta a firmare l'accordo di associazione in ogni momento purché le autorità lo chiedano con una decisione sovrana, lo ha detto il portavoce dell'Unione Europea. Vogliamo parlarvi adesso della vicenda che è arrivata da Ventimiglia, dove tre ragazzine di 14-15 anni, studentesse, cresciute in famiglia senza problemi, hanno deciso di prostituirsi per potersi comprare qualcos'altro, dei jeans, dei trucchi, dei profumi, e poi quando insomma la vicenda è stata scoperta hanno detto: abbiamo preso esempio dalla vicenda delle cosiddette baby squillo dei Parioli. Saluto Alberto Pellai, psicologo, psicoterapeuta e voce nota ai Radio 24. Alberto, ciao e bentornato. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Vorrei capire molto semplicemente un tuo giudizio sulla vicenda. Ma questa vicenda mi ha colpito per più aspetti. Il primo è che le ragazze si sono messe poi in una sorta di comportamento imitativo ascoltando una orribile notizia di cronaca e dell'orribile non hanno compreso niente, cioè l'unico pezzo che hanno selezionato era quello apparentemente vantaggioso per loro, cioè fare soldi in fretta copiando l'idea di ragazze che erano poi finite invece in un giro che ha risvolti penali oltre che molto gravi per la loro crescita. Direi che rispetto alla storia di Roma qua c'è se non altro un adulto che ha fatto il suo mestiere, cioè... E che è andato a denunciare, sì, perché esatto. In effetti è quello che è successo. E devo dire che l'altro aspetto che mi ha colpito però molto come genitore, un po' anche come psicoterapeuta, è che sono ragazzine di 14-15 anni, mettono in piedi un giro di prostituzione gestendolo in parte dal computer di casa e poi muovendosi nel territorio dove vivono, e quindi stanno fuori di casa per lungo tempo, entrano in casa con oggetti che nessuno ha potuto dentro alla famiglia mai comprato a loro, e di tutto questo nessuno tra gli adulti si accorge di nulla. Cioè io credo che sia proprio un po' lo specchio della disattenzione educativa con cui gli adulti non guardano più i loro figli, e allo stesso tempo forse di una leggerezza eccessiva con cui noi mamma e papà pensiamo che i nostri figli sono davvero capaci a 14 anni di gestire una libertà di cui invece non conoscono assolutamente nulla. Io ti ringrazio Alberto Pellai, perché tra l'altro poi hai richiamato anche un fatto che avevamo già visto nella vicenda dei Parioli, perché la madre di una delle due ragazzine dice che di questo non sapeva niente. Grazie Alberto Pellai, psicologo, psicoterapeuta, voce nota di Radio 24, lo sentite a volte a Cuore e Denari. Noi adesso abbiamo l'inchiesta, come ogni venerdì, di Daniele Biacchessi, e la dedichiamo ai temi della giustizia. È il 7 agosto del 1990 e siamo a Roma, in via Carlo Poma 2, quartiere Prati. Simonetta Cesaroni sta lavorando negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, è sola. Svolge quel lavoro durante l'orario di chiusura al pubblico. Tra le 17.30 e le 18.30 qualcuno entra nell'ufficio e la uccide. Il suo corpo, ormai senza vita, viene ritrovato dagli investigatori solo il giorno dopo. L'assassino la colpisce con 29 coltellate, è seminuda ma non ha subito violenza sessuale. Simonetta sarebbe stata immobilizzata dopo aver lottato per tutta la casa. Sulla porta non ci sono segni di scasso. Gli inquirenti indirizzano subito le indagini con due ipotesi: o Simonetta ha aperto all'assassino, oppure questi aveva le chiavi. Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, la cerca da molte ore, si reca in via Poma 2 e parla con la portiera, la moglie di Pietro Vanacore. Dopo una lunga trattativa convince la donna ad accompagnarla nell'ufficio. Arrivati al piano, la portiera poi abbiamo prima constatato che era chiusa la porta, non era appoggiata, cioè, e ha tirato le chiavi, abbiamo chiesto di aprire a quel punto, cioè sia le chiavi proviamo ad entrare, insomma in fondo ci ha accompagnato lei, non è che eravamo sempre, chiaramente chiedevamo, non è che abbiamo fatto pressioni incredibili, insomma abbiamo fatto capire la nostra preoccupazione, la nostra necessità di sapere se mia sorella stava lì o meno. Sì, lei ha aperto. Un delitto passionale, una vendetta trasversale, un mistero legato all'intelligence. Da pochi mesi Raniero Busco è il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza ce ne siano. Da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, solo questo. Intanto le piste investigative si concentrano fin da subito sul ruolo di alcuni inquilini dell'elegante palazzo di via Poma 2 a Roma e su Pietrino Vanacore, portiere dello stabile, una persona educata, precisa, affidabile, che viene carcerato dopo pochi giorni ed esce di scena dall'inchiesta. C'è chi getta cattiva luce sulla stessa figura di Simonetta Cesaroni, notizie che risulteranno false, misteri che si intrecciano, inquirenti che battono numerose piste. Federico Valle, tirato in ballo da Roland Voller, che rivela alla polizia che il ragazzo era in via Poma all'ora del delitto, ma il sangue di Federico Valle non corrisponde a quello ritrovato su una porta. Entrano in scena i super esperti dell'arma dei carabinieri, che provano a ricostruire la scena dell'omicidio della Cesaroni e a rileggere i dati sulle macchie di sangue sui computer. Si arriva fino all'ultima sentenza di Corte di Cassazione che assolve Raniero Busco dall'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata. Busco, lo ricordo, in appello era stato assolto assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza venne impugnata dalla Procura Generale di Roma e il Procuratore Generale della Cassazione, al termine della requisitoria, aveva chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado e un nuovo processo. 7 agosto 1990. L'Italia era reduce dalle notti magiche dei mondiali di calcio e dalla delusione per quei rigori sbagliati che ci avevano costati il titolo. Al governo allora c'era Giulio Andreotti. Da pochi giorni Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait. Sembrano eventi di un secolo fa, ma l'assassino di Via Poma resta ancora un profondo buco nero della cronaca italiana, cioè una storia di giustizia ingiusta. Un aggiornamento ancora dall'Ucraina prima di andare in viabilità. Gli aeroporti della Crimea, che erano picchettati da uomini armati filorussi, sono di fatto di nuovo sotto controllo delle autorità ucraine. Lo sostiene il nuovo direttore del Consiglio di Sicurezza ucraino, ma naturalmente, insomma, in questo momento, in questa situazione, è difficile avere conferma. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come dicevamo un attimo fa, in Crimea gli aeroporti sarebbero tornati sotto il controllo delle nuove autorità ucraine. Intanto resta alta la tensione, il nuovo governo chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ci sono i dati sulla disoccupazione che sono molto pesanti. In gennaio sfiora il 13%, al 12,9% per l'esattezza, i massimi dal 77%. Quella giovanile al 42,4%. Renzi dice allucinante, la nostra prima mossa sarà il Jobs Act. Nel frattempo è riunito il Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri che ha approvato le nuove norme sugli enti locali, compreso il Salva Roma. All'ordine del giorno ci sono anche le nomine di sottosegretari e viceministri. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I'm Andy, Cloud Desire. As you can imagine, we work across the cloud space. Avete sentito? Eddie Ferretti presenta Cloud Desire. Cloud Desire è un'azienda, una startup italiana che aiuta i piccoli medi produttori di software italiani a collocarsi sulla nuvola, a lavorare sulla nuvola. È la voce di una delle 14 startup italiane che hanno fatto un loro, chiamiamolo, debutto a Wall Street. Parolone, perché non è che si sono collocate in borsa, sperano magari un giorno di riuscire a collocarsi in borsa, chissà, magari in Italia. Però in effetti sono sbarcate grazie ad un gruppo che si chiama Italia Camp, sono venute al New York Stock Exchange, alla borsa di New York. Devo dire, ci sono andato, c'erano alcuni colleghi giornalisti, c'era un folto pubblico, devo anche dirvi, per onore di cronaca, che è stato un evento anche molto italiano. Cioè, l'idea era di portare le start-up perché potessero parlare con degli investitori americani, trovare qualcuno che le intervistasse, vedere se qualcuno riusciva a raccogliere dei fondi. Ecco, tutta questa parte è stata un po' più farraginosa, non tanto perché le aziende, diciamo, erano ospiti di passaggio su un parterre che nella serata era già chiuso, ma proprio perché da una parte c'era una presenza limitata di fondi statunitensi e dall'altra il pubblico, vi dicevo, era soprattutto un pubblico arrivato dall'Italia. Questo ci conferma che cosa, insomma, dobbiamo riflettere. Abbiamo un nuovo governo che cerca di spingere per introdurre flessibilità, per aprire la testa di aziende italiane, degli investitori italiani, del modo in cui facciamo business. E poi però l'esperienza dell'altro giorno ci conferma quanto sia difficile attirare in grande stile capitali internazionali verso il futuro del Made in Italy. Ecco, non c'è stato solo l'appuntamento di Italia Camp, stamattina ci sarà un altro evento che cercherà di presentare l'Italia nuova con le sue riforme, l'Italia collocata nell'Europa, ci saranno a parlare dell'Italia e dell'Europa Antonio Tajani, ci sarà Fulvio Conti dell'Enel, Claudio Del Vecchio di Brooks Brothers, Alessandro Castellano, amministratore legato di Sace, Fabrizio Freda di Estée Lauder, amministratore delegato di un'importante azienda americana, Maximo Ibarra, di Wind. Insomma, ci sarà una folta partecipazione, in questo caso non di start-up ma di consolidati manager italiani che cercheranno di dire: guardate, il nostro paese è un paese solido, venite, investite da noi. Ecco, queste sono le formule con cui noi cerchiamo così di supplire un po' la mancanza d'azione che abbiamo visti nei governi che hanno preceduto quello di Renzi. La settimana prossima ci sarà un evento in California, Italian Innovation Day, organizzato da Minded Bridge, e un altro evento di questo genere dove startup italiane verranno questa volta nella Silicon Valley. Io con me ai microfoni di America 24 Davide Bolognesi, che è un italiano che, pensate, lavora nell'ufficio del governatore Brown occupandosi proprio della promozione del business per cercare di attirare investimenti, in questo caso in California. Buongiorno Bolognesi. Buongiorno. Mi dica, ma lei è già stata a questo Italian Innovation Day? Com'era? Ha funzionato? Sì, ha funzionato, ma un po' casalingo, diciamo. Perché un po' casalingo? Cioè, c'erano di nuovo molti italiani? Beh, sì, gli italiani sono tanti, soprattutto qua nella Silicon Valley, ben affermati. Però mancano in genere gli interlocutori americani che sono già inseriti nel sistema delle venture capitalist, dei business angels funds, e quindi il discorso un po' rimane ridotto alla realtà italiana. Ecco, ma perché secondo lei noi cerchiamo di organizzare questi eventi, portiamo aziende italiane qua, poi però i venture capitalist americani, diciamo, nicchiano un pochino? Io per esempio l'altra sera, devo dire, ne ho visti un paio, c'era Cliff Friedman di Highbridge e c'era James Pallotta, che tra l'altro è il presidente della Roma, il proprietario della Roma, di Raptor Fund, due fondi. Non credo che nessuno abbia poi investito in queste aziende. Ecco, perché poi manca il passaggio? Cioè, vengono le aziende israeliane, fanno un incontro al Madison Square Garden, raccolgono decine di milioni di dollari. Per noi è più difficile. Perché? Perché c'è dietro un paese che non dà garanzie? Ma anche, soprattutto, sono eventi un po' improvvisati. E poi manca la comprensione della mentalità americana. Un'azienda o un venture capitalist per investire in un'azienda italiana vuole due cose. Uno, vuole una joint venture, quindi vuole vedere già l'azienda che sia qua, e due, vuole che il proprio partner sia affidabile. Purtroppo non c'è un profilo attualmente internazionale delle aziende italiane. Questo impedisce loro di farsi conoscere. E quindi cosa dobbiamo concludere? Che questi eventi organizzati servono magari per allargare un po' la testa degli imprenditori? Perché devo dire, guardi, che questi 14 che ho visto erano i veri eroi, perché poi sono degli imprenditori che si sono inventati delle cose nuove, si sono lanciati in un'attività imprenditoriale, cercano di darsi da fare in un paese che è molto fermo. Ecco, io adorerei poter vedere qualche investitore americano che dice: no, bravi, vi diamo dei soldi. E come riusciamo a farlo, visto che questo è il suo mestiere, dalla California? Beh, secondo me bisogna che la cornice istituzionale sia molto forte alle spalle. Un venture capitalist che sente che ogni giorno il governo è in bilico non si sente molto sereno di andare a investire i propri soldi in Italia. Bisognerebbe avere una cornice di riferimento chiara, leggi stabili. Finché il quadro normativo non diventa stabile, gli investitori non hanno interesse a muoversi in Italia. E poi bisogna che il governo sia in grado di muoversi, così come fanno altri governi, quello dello Stato della California e altri, a livello internazionale in modo molto più incisivo. Per esempio, cosa fa lei? Com'è che attira investimenti in California? Primo, importare anche in Italia il modello del visto per investitori stranieri, ovvero permettere a un investitore straniero di accedere a un permesso di soggiorno in Italia tramite un investimento di 1 milione o 500.000 di euro. La seconda cosa sarebbe l'apertura di uffici commerciali italiani all'estero sul modello pubblico-privato, per esempio lo Stato della California. Noi abbiamo aperto a Shanghai un ufficio a costo zero per il contribuente pagato ai privati. Se ne potrebbero aprire tanti e favorirebbero sicuramente l'export. E tre, facilitare l'iscrizione di massa di tanti tagli, dei tantissimi italiani all'estero, a portali come la Fonderia dei Talenti, che permette l'individuazione per le aziende italiane di professionalità all'estero che permettono all'azienda di internazionalizzarsi senza i costi normalmente associati a questo tipo di iniziativa. Se almeno una di queste iniziative si potesse realizzare, sicuramente le imprese italiane si avvantaggerebbero non poco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Happy di Pharrell Williams è in vetta alla classifica Billboard dei single più ascoltati in America. Un buon auspicio per la canzone che domenica agli Oscar, ci stiamo avvicinando al grande Oscar, cercherà di aggiudicarsi la statuetta. Di Pharrell Williams, Happy. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì con lo speciale sugli Oscar. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Oreggi in regia, a Laura Fagini in assistenza e in redazione, come sempre un grazie a tutta la redazione di Radio 24 per il lavoro. Noi ci ritroviamo tra un attimo con il giornale radio, invece Effetto Giorno torna lunedì alle 13.